Siamo viaggiatori al servizio del nostro regno. Il nucleo di Eltar si è spento e il nostro governatore ci ha incaricati di trovare le 4 chiavi necessarie per riattivarlo. Ora siamo qui alla ricerca della chiave della terra. E voi, signori della roccia, chi siete?